very happy to see you all. Sono felice di vedervi tutti. We don't have to keep this Eastern rule of men on one side, women on the other. It's all crowded, so you can come and sit here. Quindi non dobbiamo mantenere questa regola orientale della divisione uomini e donne, perché questa parte è molto più affollata. Quindi sentitevi libere di trasferirvi dall'altro lato, sentite. Mm. So this evening I'm just going to do an introductory ceremony. Sarà una cerimonia introduttiva. And then we shall just do the standing meditation, sitting meditation, walking meditation, and metta. Poi faremo una meditazione in piedi, seduta, camminata e poi una sessione di metta. And then we can go to bed. E poi possiamo andare a dormire. There should be two. You're giving only one out. Two? No, because they're put together. Some are up there, put together. The others, I guess, the one that he's giving out. You should have. Do it for you. Yes. See? Okay. Is there anybody here new to Buddhism? C'è qualcuno qui che è nuovo al buddismo? Sì. So, just for the benefit of people who are new or are new to this form. Solo per coloro che sono nuovi a questa forma. Or new to this tradition, Theravada tradition. O per le quali è nuova questa tradizione Theravada. I'll explain this little ceremony. Per questo, a beneficio di queste persone, io spiegherò questa cerimonia. So bowing is a very strong body language for surrender. Quindi l'inchinarsi è un linguaggio del corpo molto forte che rappresenta la resa, l'arrendersi. Because the Dharma asks us to give things that we don't particularly want to. Perché il Dharma ci chiede di dare delle cose che in realtà non vogliamo proprio dare. And if you don't want to do it physically, at least do it in your heart. Quindi se non volete farlo fisicamente, almeno fatelo con il cuore. Yeah, at least for this weekend, if you're here for the weekend. Almeno per questo weekend, se siete qui per il weekend. Or for the week. Oppure per la settimana. Yeah. So it's Buddham Pujami, Dhammam Pujami, Sangham Pujami. You pronounce the Pali as you read it. Quindi sono queste tre frasi, diciamo, e le pronunceremo in pali così come le leggiamo. Like Italian, come in italiano. So Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. This is honoring the teacher. Allora invece la parte successiva, l'omaggio, allora questo è un come dire, onorare l'insegnante. So for this particular time we are putting our trust in the Buddha. Quindi per questo periodo noi è come se mettessimo la nostra fiducia nel Buddha. Buddhang saranang gacchami. This is taking refuge in the Buddha. Poi la parte successiva dei tre rifugi, quindi nel primo è appunto il prendere rifugio nel Buddha. So this is not traditionally this is faith in the historical personage Siddhartha Gautama. Quindi tradizionalmente questo è prendere rifugio nel personaggio storico Siddhartha Gautama. But spiritually speaking it's the Buddha within us. Ma parlando dal punto di vista spirituale è il Buddha che c'è in noi. This is the Buddha that has to be liberated. Perché questo è il Buddha che deve essere liberato. Dhammam saranang gacchami. So this is again putting our faith in the teachings. E questo Buddha Dhammam saranang gacchami e mettere la nostra fede negli insegnamenti. And this weekend and this week it is the teachings coming through me, unfortunately. Questo weekend o questa settimana gli insegnamenti arriveranno attraverso di me, sfortunatamente. So you have to be, you have to have faith that I'm not leading you up the garden path, as we say. Quindi dovete avere fiducia che io non vi stia, insomma, di dire in inglese, non vi stia conducendo su per il sentiero del giardino, per tradurre letteralmente. Sangam Sarananga Chami, so this is putting our trust in those people who have experienced Nibbana and are therefore witnesses to the Buddha's teaching. E la terza parte, questo Sangam Saranam Gacchami, è porre fede o fiducia in quelle persone che hanno avuto l'esperienza di Nibbana e quindi come tali sono testimoni di questo insegnamento del Buddha. But we can also extend that to each other for this time. Ma possiamo anche estenderlo l'uno verso l'altro per questo periodo. It always helps to do things with other people, eh? You get that special energy of a group. Serve sempre fare queste cose con altre persone, perché si riceve questa energia speciale che deriva dal gruppo. And we repeat that three times. Dutiampi, tatiampi. E questo lo ripetiamo tre volte. So now this sila is rules of training. These training rules are really creating for us our parameters. Ecco, invece queste regole di condotta è come se ci creassero i nostri parametri. So just for this time we'll try not to kill each other. Quindi solo per questa volta cercheremo di non ucciderci. And we'll try not to thieve from each other. Anche di non rubare l'uno dall'altro. Not to indulge in sensual and romantic delight. Questo non è romantico, no? No, è sensuale. Solamente sensuale. Yes. È anche romantico. Sì, la terza regola, quindi ci impegniamo ad attenerci da un comportamento che io ho tradotto come sessuale, scorretto, non è solo sessuale, anche romantico, che in inglese è un connotato, come dire, non cercheremo di farci delle storie, come dire, dei flirt tra di noi. Yeah, we need all the energy we can get to do this work, you see. Abbiamo bisogno di tutta l'energia possibile per fare questo lavoro. Not to use wrong speech, so we know that. We can read this, yeah. And we don't. Even strong tea can make the mind busy. Ecco, quindi il quarto era quello di non usare la parola in modo scorretto, quindi cercheremo di parlare, appunto, facendo attenzione alla parola, e poi l'altro di non assumere sostanze che offuschino la mente. Vante ci ricorda che anche il tè molto forte può influenzare la mente. We don't have coffee. Do we have coffee? No. Do you want the English for this? Yeah, it's no eating after lunch. Huh? The tradition is that we don't eat after lunch. Quindi la tradizione è che non si mangia dopo il pranzo. Yeah. For those of you who've never done that, I can assure you don't die. Per quelli di voi che non l'abbiano mai fatto, io vi posso assicurare che non morirete. And it is partly to do with renunciation. Quindi in parte ha a che vedere con la rinuncia. Because when we feel a little hungry, instead of feeding it, it's an occasion to observe hunger and what it is. Quindi quando abbiamo un senso di fame, allora è una questione di non nutrire questa fame, ma semplicemente osservarla per vedere di cosa si tratta. And not to allow it to dominate us. E soprattutto non permetterle di dominarci. But also there's a compassionate reason. C'è anche una ragione più compassionevole. Because it puts us in contact with the many people in the world who are hungry. Ci mette in contatto con tutte le persone nel mondo che hanno fame. Unnecessary sleep. Yeah, unnecessary sleep. Everybody comes to the meditation retreat with some sleep imbalance, in my experience. Tutti vengono ad un ritiro con un certo squilibrio sul piano del sonno, dalla mia esperienza. Either they sleep too much or they're not sleeping well. O dormono troppo o non dormono bene. So over the weekend, those of you who are staying the weekend, if you feel tired, then just try to remain awake, but it may actually be true tiredness. Quindi per quelli che stanno solo il weekend, se vi sentite particolarmente stanchi, cercate di rimanere insomma svegli, però tenete presente che potrebbe essere una vera stanchezza. It takes about 3 days for people to iron their sleep out. E normalmente sono necessari almeno 3 giorni per livellare, diciamo, il proprio sonno. And on the fourth day, for those of you who have not done a week retreat, the energy begins to move, begins to rise. E verso il quarto giorno, per quelli che non abbiano fatto un ritiro, noterete che l'energia comincia poi a aumentare. We don't indulge in entertainment, non divertimenti. This means not to look around so much. Quindi questa è la regola successiva, e poi l'impegno successivo è non indulgere ai divertimenti, che significa non guardarci troppo in giro. Don't read, don't write. Non scrivere, non leggere. A little, if you keep a diary, a little note in the, you know, in the evening, that's not a problem. Se avete un diario, allora qualche nota così la sera, questo non è un problema. Yeah, just be careful it doesn't become a best-selling novel. So, assicurate che non diventi un romanzo di successo. What we're trying to do is to stop the input. Quello che stiamo cercando di fare è proprio di interrompere questo ingresso delle sensazioni, questo input. In order to see the output. E per poter vedere invece quello che esce, l'uscita, l'output. I translated it as abbellimento estetico, beautification. Yes, don't worry about how you look. Ecco, quindi quella successiva che io ho tradotto come non indulgere all'abbellimento estetico, perché non so proprio come renderlo, significa semplicemente di non preoccuparsi del proprio aspetto fisico. Yeah. Presume nobody is looking. Quindi supponete che non c'è nessuno che vi stia guardando. And the last one is to cherish the noble silence. Sì, l'ultimo è rispettare il nobile silenzio. In realtà in inglese cherish significa proprio apprezzare il nobile silenzio. And this means not to look at somebody, because when you look at somebody it beckons a response. E questo significa anche di non guardare un'altra persona, perché il fatto di guardare è come se si inducesse una, o si richiedesse una risposta, una reazione. Yeah. If that feels very strange to you, then just feel how strange it is, but don't look. Se questo vi sembra una cosa strana, beh, provate a sentire questa stranezza, ma non guardate. Yes. Non guardate la persona. The Vipassana verses on the other side are what it is that we are investigating. Allora, nell'altra pagina invece ci sono i versi di Vipassana e rappresentano ciò che noi stiamo investigando, ciò che stiamo ricercando, diciamo, yeah, indagando. It's the characteristics of impermanence, of unsatisfactoriness and not self. Sono le caratteristiche dell'impermanenza, dell'insoddisfazione, diciamo, e dell'assenza di un sé. Non sé. Il non sé, sì. And the rest are just quotes from the Buddha. E gli altri sono delle citazioni delle parole del Buddha. Should be sadhu, sadhu. Before we say sadhu, sadhu, sadhu, at the end. Alla fine, quindi diremo 3 volte sadhu, ripetiamo 3 volte sadhu. I shall ask you just to make a commitment to the course. Quindi prima di pronunciare queste ultime parole, io vi chiederò di, come dire, di prendere un impegno personale riguardo a questo corso. To get the best out of the retreat for yourself that you can. E quindi un impegno a prendere il meglio che riusciate a prendere da questo ritiro. Yeah. this time is entirely for you. Quindi questo tempo, questo periodo è completamente per voi. Very good. So we can. No, at the end of this. So we can begin, and you can join as you wish. Possiamo cominciare e potete unirvi alla recitazione come desiderate.